Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, quella che state ascoltando è la nostra 333esima trasmissione del coordinamento lesbiche romane attraverso i libri microfoni di Radio Onda Rossa all'interno del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87,9 MHz. Oggi in radio siamo Stefania, che vi sto parlando, e una gradita ospite per la prima volta in radio, Eli. Ciao. Vi parleremo dei film principalmente a tematica lesbica a cui abbiamo assistito al 31esimo Gay e Lesbian Film Festival di Torino. Buon ascolto e se volete intervenite fatelo. Iniziamo subito ascoltando una canzone. Abbiamo anticipato in apertura, stasera vi presentiamo alcuni film a tematica lesbica che hanno partecipato al 31esimo Torino Gay and Lesbian Film Festival, svoltosi appunto nel capoluogo piemontese dal 4 al 9 maggio del 2016. Per coloro che non lo conoscono, diciamo brevemente che il Torino Gay and Lesbian Film Festival nasce nel 1986 e ha tra i suoi scopi, come recita anche il sito della manifestazione, non soltanto quello di presentare film in anteprima nazionale, ma soprattutto quello di essere una sorta di occhio italiano, particolarmente particolarmente attento a un cinema che altrimenti non avrebbe avuto alcuna possibilità di circuitazione commerciale o amatoriale in Italia. Grazie a questo festival, e ricordiamo anche ad altri, quali ad esempio Immaginaria, che in passato si svolgeva a Bologna ed ora è all'interno del Mix di Milano, e in passato a Sample Fair Cake, si è potuto assistere a film che non trovano spazio nella programmazione ufficiale e soprattutto ad una rappresentazione di noi che rifugge gli stereotipi e i facili modelli di famigliola del Mulino Bianco o di gay del vicino di casa sempre pronta ad aiutare, così rassicuranti per il grande pubblico. Il 9 maggio c'è stata la premiazione e a vincere è stato un bel film francese, Les Belles Saisons di Catherine Corsini, storia d'amore tra donne ambientata nella Francia irrequieta degli anni 70. Noi che siamo femministe e lesbiche non abbiamo potuto non apprezzare questo film e rallegrarci per la sua vittoria al festival. Allora, qualche nota biografica della regista. Catherine Corsini scoprì molto presto la passione per il cinema e a 18 anni si trasferì a Parigi, seguendo all'Università appunto di Parigi il corso di Serge Tubiana su Jean-Luc Godard e i corsi sul teatro tenuti da Antoine Vité. L'esordio è con il cortometraggio La Mésange. Poi nel 1988 appare il primo film, Poker, interpretato da lei stessa e da Caroline Sellier. Quindi ha scritto e diretto Les Amoureux, la novella Eve, una relazione al femminile, La Répétition, l'altro amore, interpretato da Manuel Béart e Pascal Bussier. E questo film è in concorso a Cannes. Corsini è membro della giuria del Festival del Cortometraggio Europeo del 2003 e del Festival di Cannes del 2004. Poi arrivano i film Marie, Ma Patron e l'autobiografico Les Ambientaux, L'amante inglese e Trois Mondes, presentato nella sezione Un certain regard a Cannes. Poi con La Belle Saison, di cui è anche sceneggiatrice, ha ottenuto il premio Variety Piazza Grande a Locarno nel 2015. Catherine Corsini è impegnata con l'organizzazione Secours Populaire nella campagna contro le violenze coniugali e il razzismo, oltre che in favore degli immigrati extracomunitari clandestini. E adesso il film. Delphine vive in campagna, fa la contadina e aiuta i suoi genitori a mandare avanti la fattoria di famiglia. Campi da arare, mucche da mungere e da far mangiare. La sua vita sembrerebbe tutta qui, se non fosse che di notte spesso si allontana dalla fattoria per raggiungere una ragazza del vicino villaggio con cui ha una storia. Ma è impossibile essere lesbiche e vivere in campagna. Rimasta sola perché la sua ragazza decide di sposarsi, Delphine si trasferisce in città. Non una qualsiasi, parliamo della Parigi degli anni 70, piena di fermenti e contestazioni. Un giorno assiste ad un'azione di un gruppo di femministe. Aiuta Carole a divincolarsi dalle grinfie di un uomo poco convinto delle rivendicazioni delle donne e inizia a frequentare il collettivo femminista. È evidente che Delphine è subito attratta da Carole, dalla sua libertà, dal suo impegno politico, dalla passione che mette in tutto quello che fa. Anche Carole è affascinata da Delphine e la passione tra le due scoppia incontrollata, nonostante Carole abbia un compagno. Ma sono i tempi della contestazione, non si perde tempo con i sensi di colpa e la vita va vissuta al massimo, o almeno è così che Carole vuole viverla. Purtroppo a rovinare tutto ci si mette la malattia del papà di Delphine. La ragazza decide di tornare a casa. Come potrebbe sua mamma mandare avanti tutta la fattoria e pensare anche al papà malato? È una scelta di Delphine, ma è chiaro che tutti si aspettano questo al suo villaggio. Non ultimo il suo spasimante futuro marito. In realtà non le ha mai chiesto di sposarlo perché non ce n'è bisogno. Tutti pensano che Delphine presto o tardi lo sposerà. È così che funziona ed è così soprattutto che funziona in campagna. Carole soffre moltissimo della lontananza di Delphine, proprio ora che si erano trovate e che Carole aveva lasciato il suo compagno. Non ce la fa più a starle lontana e si trasferisce alla fattoria. Appena arrivata però è chiaro che non sarà come a Parigi. Lì devono stare attente, non possono amarsi liberamente. Carol accetta per amore, ma è chiaro che il nascondersi non è nelle sue corde. E allora che senso avevano tutte le battaglie fatte a Parigi? La donna porta una ventata d'aria nuova alla fattoria, ma quando la mamma di Delphine scopre la loro relazione, è il momento di levare le tende. Delphine andrà con lei? La pellicola è molto bella, la fotografia calda ci fa respirare la passione che attraversa tutto il film, non solo quella fisica tra le due protagoniste, ma anche per la politica, negli scontri all'interno del collettivo, o in Delphine per la vita di campagna, così diversa da quella di città. Belli tutti gli scatti di Carol, interpretata dalla brava Cécile de France, che ne dà un'interpretazione sempre estrema, al limite di ogni passione. Interessante la sorta di ribaltamento, la lesbica si nasconde e l'etero vuole vivere alla luce del sole. Bello perché non è fatto a caso, ma motivato con i due caratteri dei personaggi. Carol ha una maggiore coscienza politica alle spalle e per questo riesce ad accettarsi. Delphine rimane intrappolata in un ambiente rurale e patriarcale che ama, ma che non la può accettare per quello che è. Infine, noi che siamo un po' vetero, lo sapete, abbiamo ovviamente apprezzato i canti femministi che si sentono mentre le protagoniste si accingono alla manifestazione. Ma a me personalmente è piaciuta soprattutto l'ambientazione, il fermento di quegli anni, più che la storia d'amore in sé. Diciamo che la giuria del festival apprima del film con la seguente motivazione, dicendo che è un film profondo e autentico, che usa come strumento una recitazione che va al di là delle parole, un inno a inseguire la nostra felicità nonostante gli ostacoli che a volte la vita ci pone davanti, prendendo in esame un periodo storico, fondamentale per l'emancipazione femminile come gli anni 70 e le problematiche che ancora oggi ci troviamo ad affrontare, raccontando finalmente l'amore tra due donne in modo libero, che sia fonte di ispirazione per la nostra mente e soprattutto per la nostra classe politica. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, with the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. Body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. We got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, I got a job that pays all our bills. Drinking late at the bar, some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Altro film lesbico presente al festival in concorso nella sezione lungometraggi è Staff, della regista qui anche sceneggiatrice Susan Guacci. Susan Guacci è statunitense, oltre ad essere appunto una regista e sceneggiatrice, è anche produttrice. Nel 2008 ha co-diretto con Michael Magnifico il lungometraggio Cycles e successivamente ha scritto e diretto i cortometraggi A Soft Place nel 2009, Honey nel 2010 e con My Really Cool Ex nel 2011 ha vinto il premio della giuria per il miglior documentario al Long Island International Film Expo del 2012. Tutti i suoi lavori sono stati prodotti dalla casa di produzione Aspire Production, da lei fondata con Teresa Aquilina. Allora, il film narra le vicende di Trish e Deb, sposate da 14 anni e con due figlie. La prima è una dentista, la seconda casalinga. La vita di coppia risulta essere molto noiosa e anzi quasi assente. Trish è molto presa dal lavoro e dalla sua famiglia di origine. Ha perso il padre 5 anni prima, ma non sembra ancora aver superato la cosa. Tenta di farla accettare a sua mamma, ma non ha con lei un buon dialogo e rimane intrappolata nel passato e nei ricordi senza riuscire a venirne fuori. Deb si sobbarca tutto il menage familiare, la gestione delle figlie e della casa, tentando senza successo di coinvolgere Trish o almeno di scuoterla dai suoi problemi. Complice un litigio delle bambine a scuola, Deb fa la conoscenza di Jamie, tatuatrice e mamma single, affascinante e ovviamente incasinata, che lei coinvolge nella sua vita e nei suoi problemi con l'ex manesco e inaffidabile. L'equilibrio familiare inizia a cedere perché da un lato Trish è completamente assorbita dal bisogno di aiutare sua madre, che oramai vive in solitudine, mentre Deb, come da copioni già visti, sentendosi sola, si invaghisce di Jamie. La novità è incarnata dalla tatuatrice, che restituisce a Deb le attenzioni del tempo che la moglie non le dedica più, fino a sfociare in una notte di passione ormai dimenticata con la moglie. Quale sarà il risultato di questo intreccio? Deb e Trish rimarranno insieme? Voi chi scegliereste, la dentista o la tatuatrice? E tu, Eli, chi sceglieresti? Una dentista tatuata? Scherzi a parte. Staff, come dice il titolo stesso, è un film su tante cose. È innanzitutto un film sui rapporti, in particolare sulle crisi personali e di relazione che ci si può trovare ad affrontare nel corso degli anni. La storia inizia con una carrellata di episodi più o meno gravi di assenza, di dialogo, di assenza di intimità e di continue disattenzioni. Anche questo film, come la maggior parte dei family drama che si rispettino, non sfugge ai dei temi classici, come il dualismo routine-novità. Altro tema cardine del film è l'equilibrio tra la famiglia di origine e quella di Deb e Trish. Infatti, nel corso della storia diventa sempre più chiaro come l'aiuto di cui Trish pensa che la madre necessiti sia l'escamotage che ha creato per non affrontare le difficoltà. la difficoltà di elaborare il lutto. Quindi tutta la sua attenzione è dirottata verso la madre, in sfavore della moglie e delle figlie. Sarà proprio sua madre a farle comprendere che questo suo scoglio la sta portando ad evitare la sua famiglia con il rischio di perderla. Allora, su questo film abbiamo pareri discordanti. A me non è piaciuto granché, tranne che per la datatrice ovviamente. La famiglia omogenitoriale è una realtà in molti paesi e così è nato tutto un filone di film a tema. Ma c'è un motivo al fatto che i film di solito finiscono con un "e vissero felice e contente", perché dopo diventa noioso. Prendi una coppia etero, lesbo o omo, metti la routine, aggiungi due marmocchi, un pizzico di pepe dato da un terzo incomodo e il risultato finale non cambia. Vedi tanti film con la stessa tematica. Uno su tutti, "I ragazzi stanno bene". Che ne pensi, Eli? Mi sembra di capire che comunque venga dipinta la lesbica non vada bene. Anni addietro i film finivano sempre con lei triste, sola o addirittura morta suicida, perennemente outsider e sempre sopra le righe. E questo stereotipo veniva fortemente criticato dalla comunità lesbica perché è molto distante dalla realtà. Invece in questo film è ritratta come la donna della porta accanto e anche questa descrizione non va bene, perché sembra essere un tentativo di normalizzazione per rendere più digeribile la figura della lesbica. Può esistere, mi chiedo, un personaggio cinematografico lesbico in cui ci si possa riconoscere? Wonder Woman? Sì, ma non è lesbica. Allora Catwoman? Don't you know, talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Where people gonna rise up and get their share? Where people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those observers, armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Tra i vari film interessanti, non prettamente a tematica lesbica, che ci hanno colpiti, c'è Kiki, della regista Sara Joderno, documentarista e visual artist svedese. I suoi progetti sono stati acquisiti e proiettati da importanti fondazioni o rassegne come il Rotterdam International Film Festival, come la Biennale, il Modern Museum e il MoMA. Ha studiato alla Malmo Art Academy, all'UCLA, dove si è diplomata nel 2003, insegna metodi di ricerca in ambito artistico alla Gothenburg University e dopo aver diretto un buon numero di cortometraggi ed aver realizzato video installazioni nell'arco di 18 anni, ha esordito nel documentario proprio con Kiki, vincitore del TED di 2016 a Berlino. Kiki è un documentario sulla comunità LGBTQ afroamericana newyorkese che grazie alla musica hip hop e al ballo tenta il riscatto sociale. È un film che descrive la situazione di ragazzi giovanissimi allontanati dalle famiglie di origine per la loro identità di genere o orientamento sessuale. Questi trovano accoglienza e ragione di rivalsa grazie ai gruppi, una specie di famiglia per molti di loro, che organizzano serate appunto a tema Kiki. La traduzione è letteralmente divertente, movimento erede della tradizione del ballroom. La sfida di ballo e di travestitismo per il tema della serata, che cambia di volta in volta, convoglia le energie dei ragazzi e l'unione e il rispetto del gruppo di appartenenza sono motivo di coesione e lotta. È da elogiare sicuramente il lavoro che compiono i papà, così vengono chiamati nelle rispettive case, che gestiscono dai 20 ai 60 ragazzi, senza alcun aiuto economico statale. Rimaniamo perplessi sia dall'assurdità di ragazzi così giovani, in molti casi cacciati fuori di casa dalle famiglie di origine, che da così tanto impegno profuso per una sfida, in definitiva di ballo, che dura 5 minuti al massimo e che però non porta in nessun modo questi giovani a costruirsi un futuro lavorativo reale. Altro film interessante è The Girl King del regista Mika Kaurismäki. Mika ha studiato cinema a Monaco dal 1977 al 1981. Il suo innovativo film diploma The Liar ha segnato l'inizio di una nuova era per la cinematografia finlandese. Tra i suoi lavori più celebri, I Senza Valore, Rosso, Napoli Berlino, Un taxi della notte, Zombie ja kummismatiana, Los Angeles senza meta, La casa degli amori stabili, presentato in anteprima al Toronto International Film Festival e The Road North. Con il fratello minore Aki è cofondatore della casa di produzione Ville Alpha Film Production. The Girl King si iscrive nel filone dei film storico-biografici, descrive infatti la vita della regina Cristina di Svezia. Sullo stesso argomento ricordiamo il famoso La regina Cristina del 1933 con l'indimenticabile Greta Garbo. Il film di Kaurismäki è interessante per l'accento che pone sui difficili rapporti di Cristina con la sua corte, dalle incomprensioni con la madre, non del tutto sana di mente, alla voglia di portare una ventata di cultura nell'arretrato regno svedese. Si respira questa tensione nella protagonista per tutto il film, tensione per la cultura, tanto da voler fare di Stoccolma l'Atene del Nord, e tensione per le rigide convenzioni di corte che la vorrebbero sottomessa e ovviamente sposata con prole al seguito. Non si sottometterà mai e amerà ricambiata la contessa Ebba Sparr. È interessante come il regista riesca a rendere questa tensione e queste costrizioni anche grazie all'ambientazione nordica del film, che ci restituisce una freddezza non solo climatica, in forte contrasto con la passione culturale e fisica che vive la protagonista. Segnaliamo infine anche la presenza al festival di Nadia Pizzuti con Nina Mangiacapre, artista del femminismo, presentato nella sezione Extra Italiani, che è stato molto apprezzato. Vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87,9 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle ore 21, mentre il martedì femminista e lesbico inizia dalle ore 17 tutti i martedì. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle 22, oppure alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista, ogni giovedì a partire dalle ore 21, al numero 06 68 64 201. Questo è un telefono fax e segreteria telefonica, oppure ancora potete scriverci a CLR presso Casa Internazionale della Donna, via San Francesco di Sales 1B, 00165 Roma. Vi ricordiamo inoltre anche la nostra email, che è contatti@clrbp.it e il nostro website www.clrbp.it e la nostra pagina Facebook CLR, potendo inviarci un'email all'indirizzo di posta elettronica che vi ripeto subito nel caso non aveste fatto in tempo a scriverlo: contatti@clrbp.it. Ripetiamo anche il telefono della radio, che è 06 49 17 50. Qualche trasmissione addietro vi abbiamo parlato della masseria Sant'Anna in Puglia, che come ogni anno dal 6 al 16 agosto ospita le donne per la vacanza lesbica. Ora vi leggiamo brevemente il programma di quest'anno. Per informazioni e prenotazioni potete contattare il numero 333-64-16-863 oppure scrivere a info@masseriasant'anna.it o andare sul sito www.masseriasant'anna.it. Allora, il programma, che parte dal 6, la vacanza parte dal 6 agosto fino al 16 agosto. Il 6 ci sarà la sera disco bar, ovviamente il giorno si va al mare, si fanno escursioni e quant'altro, quindi il 6 ci sarà disco bar. Il 7 animazione a cura di Antonella Favia. L'8 disco bar, il 9 disco bar. Il 10 lo spettacolo teatrale Ofelia non abita più qui di Alessandra Lanzillotti. Giovedì 11 animazione. Il 12 animazione anni 70. Il 13 animazione con la partecipazione straordinaria di Alessandra Lanzillotti. Il 14 festa con DJ Contest. E il 15 la festa finale. Ora qualche informazione sulle ospiti. Antonella Favia è un'esperta educatrice professionale con esperienza decennale nel campo dell'animazione sociale, del disagio minorile e degli interventi mirati al recupero delle persone con disagio sociale. Utilizza il gioco come strumento espressivo e educativo della creatività e della personalità dei bambini e delle bambine nel rispetto della diversità, con l'obiettivo di concorrere alla crescita umana delle persone. Quale migliore esperienza poteva essere messa in campo per recuperare noi povere bambine lesbiche che non sanno più giocare? Da molti anni è la presidente dell'associazione Arcilesbica Mediterranea di Bari. Alessandra Lanzillotti, dottore di ricerca in semiotica e filosofia del linguaggio, regista e drammaturga, esperta in cooperazione ed in gestione dei conflitti attraverso le tematiche del teatro dell'oppresso. Ha fondato nel 2008 l'associazione Teatri di Pace, che si occupa di dialogo interculturale e produzione teatrale. Allora, gli eventi programmati saranno A mare con i delfini. Preparati ad una delle esperienze più emozionanti e coinvolgenti della tua vita. A bordo del catamarano potrai finalmente osservare da vicino i fantastici delfini che sono presenti nelle acque del Golfo di Taranto da oltre 4.000 anni. Avrai inoltre l'occasione di identificare e fotografare i diversi esemplari di cetacei e di ascoltare, registrare i loro fischi e clicks degli esemplari vocalizzazioni. Durante tutte queste attività l'equipaggio del catamarano vi farà anche degustare specialità locali. Ofelia non abita più qui. Regia ed adattamento di Alessandra Lanzillotti. In un bar, un gruppo di donne è impegnato ad organizzare una performance in occasione di un evento speciale per celebrare i 20 anni di attività del locale. Una serata contro l'omofobia e contro qualsiasi forma di discriminazione. Tra una prova e l'altra si intrecciano con ironia e semplicità i vissuti di amiche e complici di una stessa avventura, dare corpo e faccia e parole alle donne che amano le donne. Lo spettacolo nasce da un percorso di laboratorio sull'identità di genere e sulla scrittura autobiografica. giunto al secondo anno di sperimentazione in collaborazione con Arcilesbica Mediterranea Bari e Teatri di Pace. Il percorso ha portato alla costituzione di un gruppo Le Teatranti che condividono la comune passione per il teatro, quale forma di espressioni per raccontare e raccontarsi. Il laboratorio ha coinvolto nel suo sviluppo donne di età ed esperienze diverse, nelle tessiture di un lavoro collettivo che si è arricchito di alcuni passi del libro di Giulia D'Alena, Quattro Quarti, e in cui alcuni racconti si mescolano ai sogni, parole e vissuti di persone consapevoli di essere ciò che vogliono essere, al di là di stereotipi e ruoli sociali. Donna come soggetto attivo del cambiamento e non strumento di volontà altrui che da sempre la vogliono, suo malgrado e malgrati tempi, moglie, madre, custode del focolare domestico all'ombra di una società dei pensieri unici. Ofelia, folle per amore e soprattutto preda degli eventi, se ne va e lascia il posto a donne capaci di scegliere e di scegliersi. Allora, per stasera abbiamo finito. Speriamo vi sia piaciuta la trasmissione e anche le info sulla vacanza in masseria. Vi salutiamo, ciao da Stefania. Ciao da Eli. A presto. Conto a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold.